Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui. Buongiorno, grazie per essere in mia compagnia. Stavo pensando che il clima è clemente, ma l'inverno è alle porte, non illudiamoci, quindi arriverà e ci metterà alla prova. Allora, prepariamoci. Il nostro corpo è uno straordinario suggeritore, ci dà delle indicazioni preziose, ci segnala le sue preferenze, le sue debolezze, le sue necessità. Se impariamo ad ascoltarlo, siamo a metà dell'opera. Allora, voi sentite un po' che cosa vi dice e poi chiamateci. 800 24 00 24. Ma che sono io? Piano! Che sono arrivato a velocità, capito? Siediti. Ci sentiamo, carichi o scarichi? Questa è la prima domanda che può aiutarci a trovare la direzione. Leggeri o appesantiti? Non mi riferisco al girovita, quello lo mettiamo a posto domani con una nuova puntata di Mangia con me, ma a quella sensazione, simile un po' alla fatica, con cui molti di noi si confrontano proprio in questo periodo dell'anno, in cui avvertiamo chiaramente che il nostro corpo ha bisogno di purificarsi per ricaricarsi. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Giorgio Battaglia, primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai radioascoltatori. Sì, dicevi proprio giustamente, le giornate si accorciano, il sole si fa sentire meno. Lo sai che c'è una proteina che si trova vicino alla retina e che sente che la luce comincia a diminuire e che il calore del sole non c'è e che questo dà dei segnali al cervello per cui il cervello comincia a renderci più depressi, meno vogliosi e meno voglia di voler bene. Quindi in effetti l'autunno è una stagione più malinconica. Sì, proprio per questo. È stato scoperto questo gene che si trova vicino alla retina e che produce una proteina che trasmette questo stimolo. E noi viviamo in un paese bellissimo, quello è l'Italia, che ha su 365 giorni all'anno grandissimi, 200 con grande sole, ne dobbiamo godere, infatti noi siamo quelli più fortunati, ci ammaliamo di meno proprio per questo, perché le nostre ghiandole che risentono del cambiamento, risentono dell'autunno come della primavera, si adattano a questa forma di essere meno illuminati, meno luce, e il cervello ha bisogno di luce per poter funzionare, per avere effetti positivi sulle endorfine, sulle encefaline, che sono le sostanze che ci fanno sorridere, che ci fanno stare allegri, che ci portano gioia. E questo ci porta anche a come il nostro armadio che noi abbiamo nelle nostre case, che lo cambiamo in autunno, così il nostro armadio, che è la nostra 80% di quello che abbiamo dentro, che è acqua, bisogna che sia rimodulato, bisogna che sia cambiato, bisogna che le vitamine, che sono la parte principale di questo 80% dell'acqua, insieme a tanti altri sali, devono essere cambiati per riadattarsi a questa nuova situazione in cui noi dobbiamo affrontare. Professore, noi in questo periodo, come lei sottolineava, sentiamo che il nostro umore è un po' malinconico, ci stiamo quasi preparando ad andare in letargo. Noi diamo la colpa al cambio di stagione, in realtà, come lei ha suggerito con questi segnali, il nostro corpo ci dice che ha bisogno di depurarsi per ricaricarsi, insomma svuotiamo il serbatoio di benzina vecchia per riempirlo di benzina nuova, abbiamo bisogno di eliminare le tossine per fare spazio ad una nuova energia. Per fortuna noi siamo in grado di eliminare quello che non serve, c'è una splendida coppia che lavora per noi. Sì, sono dei bravi ricevitori di messaggi e dei bravi esecutori. In questo periodo cominciamo ad avere un po' più di freddo e quindi i nostri vasi si cominciano a restringere, la nostra pressione si alzerebbe come se il sangue corresse in qualcosa di più stretto e quindi si alza la pressione. Il loro modulo e noi non diventiamo ipertesi, non si alza la nostra pressione che diventa patologica e loro lavorano per questo. Questo è il primo segnale del freddo. Poi noi abbiamo bisogno di ricaricare, dicevo, i nostri elettroliti. In questo momento tutte le verdure di stagione sono la cosa più bella di cui dobbiamo godere, perché in questo momento abbiamo bisogno di manganese, di magnesio, di cobalto, che sono negli ortaggi che la stagione perché ci la dà. Natura ci mette sempre a disposizione quello di cui abbiamo bisogno. Professor Battaglia, la stanchezza diffusa si accompagna spesso ad altri sintomi e soprattutto nei cambi di stagione, in autunno in particolare abbiamo poca voglia di fare le cose, l'umore che cala un pochino, la sensazione di gonfiore, di affaticamento. Alcuni lamentano al 349-238-6666 una certa difficoltà a dormire nonostante si arrivi a casa alla sera ormai stanchi. I benefici delle vacanze sembrano ormai lontani, svaniti nel nulla, ma qualcosa si può fare. Ascoltiamo il nostro corpo, chiamate l'800-24-0024 come ha fatto Francesco, che ci chiama da Milano. Buongiorno Francesco. Buongiorno, complimenti per la trasmissione prima di tutto. Senta, io ho un problema, forse sarà anche un problema di stagione, come diceva il professor Battaglia. Io ultimamente, da qualche mese, avverto stanchezza, ma stanchezza anche nella muscolatura. Fatto sta che io la sera, quando vado a letto, che già dormo pochissimo, essendo che faccio il camionista, dormo poco. Sì. Faccio fatica ad addormentarmi per il dolore proprio nei muscoli delle gambe. Io sono andato anche dal mio medico, mi ha dato degli integratori, mi ha dato anche il Vitality da prendere una bustina al giorno, però il miglioramento non l'avverto. Allora, è una situazione un po' complessa ma molto frequente, professor Battaglia, questa stanchezza che avvertiamo anche a livello muscolare. Certo, il cambiamento delle temperature ci dovrebbe portare anche a un cambiamento di stile di vita e di alimentazione. Il primo errore che tutti noi commettiamo è col primo freddo noi ci riempiamo di cibi ricchi di grassi animali, ricchi di zuccheri, perché pensiamo che combattiamo il freddo con questi cibi, e questi ci portano e aumentano le nostre sensazioni di intorbidimento. Invece la natura, se noi guardiamo e leggiamo la natura, perché il nostro corpo si deve sempre reagire con la natura, ci pone in questi giorni, in questa stagione, invece delle verdure come i cavoli, la zucca, che senza calorie invece è ricchissima di vitamina A, che è un antiossidante. L'antiossidante è un antinfiammatorio. Avere meno infiammazione ci fa dormire meglio e ci fa sentire meno stanchi e ci dà meno dolore. I cardi sono anch'essi ricchi di calorie e ricchi di fibre che, come dire, il nostro intestino ne risente talmente bene e che noi combattiamo quel senso di stanchezza e quel senso di gonfiore che noi cominciamo ad avere proprio perché introduciamo grassi, zuccheri per combattere il freddo. Invece le fibre ci permettono di essere senza quel gonfiore allo stomaco e il nostro metabolismo intestinale diventa più sobrio. Masticavo semi di mela alla luce del mattino, le increspature dell'aria sembravano pulsare, mi giungevano frasi, odori di erbe bruciate, scintille di fuochi, suoni lontani. Masticavo semi di mela alla luce del mattino, le increspature dell'aria sembravano pulsare. Saluto il dottor Ciro Vestita, medico dietologo all'Università di Pisa. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi, eccoci. Dottor Vestita, l'abbiamo introdotta con Battiato. Masticavo semi di mela alla luce del mattino. Non le voglio dire altro. Va molto bene, i semi di mela sono qualcosa di pazzesco. Io consiglio sempre, in questo caso nelle pomace, di mangiare questo tipo di semi. I semi di mela sono qualcosa di favoloso, nulla a che fare con quelli di albicocca che invece sono velenosi. o di pesca altrettanto. Nei semi di mela ci sono una marea di sostanze antiossidanti, tant'è e di meraviglie, tant'è che se io pianto il seme poi nasce l'albero. Quindi un semino che può darmi una vita ha in sé tutte le condizioni per potermi dare una quantità enorme di salute, e questo è quanto. Dottor Vestita, abbiamo bisogno dei suoi consigli perché anticipava, come anticipava il professor Battaglia, l'autunno può essere una stagione difficile, una stagione in cui è necessario fare una sorta di reset, facciamo un po' di ricambio, eliminiamo le tossine per fare spazio ad una nuova energia. Naturalmente le erbe ci aiutano. Beh, senz'altro sì, pienamente d'accordo col collega, i grassi saturi sono sempre tanti e fanno veramente male. Detto questo, c'è un'abitudine contadina che in questo periodo della raccolta delle olive di raccogliere gli erbi. Gli erbi altri non sono che verdure selvatiche, che però attenzione sono il tarassaco, le ciceperbite, le crespigne, sono tutte piante altamente diuretiche. Cosa accade? Fare una minestra alla sera di queste qui vuol dire scambiare sodio potassio, riservare il potassio, buttare via il sodio e stare meglio. La fitoterapia però ci dice delle cose in più, ci sono delle piante specifiche altamente diuretiche che ci fanno stare bene. L'equiseto, con una pianta diuretica, è anche rimineralizzante, la betulla stessa, la pilosella, il rusco. La fitoterapia non fa mai miracoli veloci, mai. Se io ho un problema di colesterolo ci metto 2 mesi ad aiutarmi, però nell'insufficienza venosa degli arti inferiori, in soldoni, le gambe pesanti, il rusco fa autenticamente dei miracoli. Tutto a costo zero, perché una tintura madre di rusco costa 4 euro e dura 1 mese, questo è quanto. Dottor Vestita, prima di salutarla, abbiamo preso appunti sulle erbe, naturalmente metteremo come sempre i consigli del dottor Ciro Vestita, lo anticipo già per gli ascoltatori che me lo stanno già chiedendo sulla pagina di Essere Benessere, ma prima di salutarla vorrei parlare con lei di un prodotto di stagione su cui vorrei soffermarmi rapidamente, sono i funghi, che non possiamo fare a meno di citare sia per la stagionalità sia perché, a proposito di tossine, noi oggi vogliamo parlare di come e perché è utile depurare il nostro organismo, e parleremo naturalmente di quella coppia magnifica che lavora per noi, che sono i reni, ma i funghi possono, a proposito di tossine, essere altamente tossici. Guardi, stamattina ero su Rai 1, lì da Alessandro Di Pietro, beh, insomma, voglio dire, amara la storia, perché 3 persone della mia città sono morte perché hanno ingerito Manita falloide. I funghi vanno conosciuti, i funghi sono delle mine anti-uomo. Andare nei boschi, innanzitutto si devastano i boschi, andate nei boschi per erbe selvatiche e lasciate stare i funghi. Quei pochi che raccogliete, se li conoscete, portateli alle ASL, perché veramente ci si muore. Una di queste persone ha avuto un trapianto di fegato, nonostante questo è morto. Detto questo, un invito: la Facoltà Agraria di Pisa ha creato un fungo, il Pleurotus, che si vende ovunque, è allevato, è cresciuto su ciocche di pioppo, quindi sono simili ai pioppini, sono favolosi, sono veramente buoni, costano 2 lire, acquistate quelli e lasciate stare i boschi. Detto questo, il valore nutrizionale, 2 molecole nuove sono state scoperte recentemente nello shiitake e anche un po' nei nostri funghi, lentinano ed eritadenina, hanno un potere immenso nella profilassi antitumorale e soprattutto per abbassare il colesterolo. Le case farmaceutiche già si stanno affacciando e creando prodotti antitumorali a partire dallo shiitake. I funghi sono ottimi, sono anche dei grandi spezzafame. Per avere le stesse calorie di 70 grammi di formaggio ci vogliono 450 grammi di funghi, quindi ci saziano, strutture spugnose, piene di steroli vegetali. Gli steroli sono dei competitors che vietano praticamente al nostro organismo di assorbire colesterolo, visto che vengono assorbiti essi. Però attenzione, state lontano dai boschi se non conoscete veramente i funghi, perché 3 persone morte in pochissimo tempo nella mia città è stata veramente una coltellata al cuore. E se le raccogliete senza devastare assolutamente i boschi, portatele alle ASL. Dottor Vestita, grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Buongiorno. Professor Battaglia, continuiamo a depurarci, i reni ci danno una mano, l'importante è che questa coppia funzioni bene. Quali sono i segnali della buona salute dei nostri reni? Fare tanta pipì? Fare la giusta pipì. Fare tanta pipì non significa sempre un benessere. Per esempio, fare la pipì di notte non è un segno buono. Fare tanta pipì significa anche introdurre grandi quantità di acqua. Se questo si fa, certamente si fa grande quantità di pipì. O per esempio il freddo in questi ci fa fare, abbiamo la sensazione che facciamo tanta pipì, ma la facciamo perché il freddo inibisce un ormone dell'ipofisi, la diuretina, che dà un segnale ai reni, e questo segnale ai reni, la mancanza di questo segnale ai reni fa fare tanta pipì. E quindi d'inverno ci dicono tutti: facciamo una pipì un po' più chiara, certo, perché è più diluita, perché il freddo, come l'alcol o come il caffè, inibisce l'ormone della diuretina. Ehi, che stai facendo? Stai ancora facendo pipì? Smettila, basta, mi hai sentito, basta, smettila, smettila subito, hai sentito? Vedi, passare come persona! Calmo, stai calmo, è pipì! Non aver paura. Quanta pipì fate durante la giornata? Bevete a sufficienza? Spesso si beve molto d'estate perché avvertiamo lo stimolo della sete, ma dimentichiamo di bere in autunno quando arriva il freddo. Il professor Battaglia diceva: se ci alziamo di notte a fare la pipì non è buon segno. Allora, dato che la pipì la facciamo tutti e la facciamo più volte al giorno, questa proprio in una puntata in cui parliamo di depurazione potrebbe essere una buona occasione per saperne di più. Abbiamo in linea con noi Daniela, che ci chiama da Salerno, e Riccardo, che ci chiama da Bologna. 800 24 00 24. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Eccomi, Daniela. Allora. Posso dire? Ecco, Daniela, non la sentiamo, la richiamiamo e andiamo a Riccardo, che ci chiama da Bologna. Riccardo? Buongiorno. Buongiorno, sì. Dunque, io sì, ho sempre saputo che c'è una ragione biologica, fisiologica, per cui l'arrivo delle stagioni invernali, le giornate più corte, mette insomma un po' di cattivo umore quasi tutti. A me succede esattamente il contrario, nel senso che mi entusiasma, amo questa stagione, anche le giornate più corte, l'arrivo della sera, della notte, in generale così. Lo vivo con veramente molto entusiasmo, mi emozionano anche così il fatto di provare freddo e entrare in una stanza riscaldata e cose del genere. I miei amici simpaticamente dicono che ho la chimica invertita. Però Riccardo, è carina la sua descrizione, soprattutto per noi, perché il professor Battaglia dice: abbiamo tanti giorni di sole. Il professor Battaglia abita però in Sicilia, fortunato lui, mentre noi a Milano e credo anche a Bologna l'inverno dura a lungo. E quindi Riccardo, se l'inverno le tira sull'umore, è magnifico tutto questo. Io mi reputo veramente fortunato, ecco, diciamo che è una stagione che, cioè, godo ovviamente dell'estate, le giornate più lunghe, eccetera, però quando arriva l'inverno ho decisamente un momento particolarmente speciale, ecco, che mi accompagna fino a febbraio. Non riesco a trasmettere a tutti questo entusiasmo, ovviamente. Però un pochino l'ha mandato anche a noi. Grazie Riccardo. Autunno ti fa sonnolento, la luce del giorno è un momento che irrompe veloce e svanita, metafora lucida di quello che è la nostra vita. L'autunno che sfuma i contorni, consuma in un giorno più giorni, ti sembra sia un gioco indolente. Siamo tornati insieme, pronti per il nostro programma disintossicante. Approfittiamo dell'autunno per poter vivere di rendita in inverno. In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Battaglia. Professore, eliminiamo le tossine, le eliminiamo anche attraverso l'urina e i reni. Sono proprio i due organi, la coppia che ci fa fare la pipì. Ma fanno anche tante altre cose i reni. Ad esempio, tengono a bada la pressione, purificano il sangue attraverso delle strutture molto piccole che hanno la forma di una matassina di cotone. Vengo alla domandona: come si chiamano? 800 24 00 24. Queste piccole strutture che sono nei reni e che purificano il sangue. Il professor Battaglia naturalmente ci dirà poi la risposta esatta. Voi iniziate a pensarci e a chiamarci all'800 24 00 24. Oggi ho pensato di non farvi avere una guida al benessere, ma un libro che mi è piaciuto molto. Si intitola Sul retro del tovagliolo: come risolvere i problemi e vendere idee con le immagini. Abbiamo in linea con noi Nicola da Pavia. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto approfitto di Nicola. Nicola, stia lì un secondo. Professor Battaglia, molti ascoltatori mi chiedono perché non fa bene fare pipì la notte. Sono arrivate tantissime telefonate all'800 24 00 24 e tanti messaggi, tutti concentrati sulla pipì notturna. Intanto sentiamo anche Nicola. Nicola. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire la stessa cosa. Anche lei, anche Nicola, sì. Pipì notturna. Però volevo anche mettere in evidenza i costi proprio della pipì. Che differenza c'è? C'è una differenza. Sa che Nicola, io non l'ho sentita perché è andata via un attimo la voce. Voleva sì, le dicevo, anche il colore della pipì stessa. Anche il colore, ma certo, oggi andiamo anche di colore. Allora, professor Battaglia, perché la notte non va bene? Ma perché questi due organi non solo purificano il sangue, sono anche molto intelligenti. E dicono, dobbiamo far dormire il nostro organismo e quindi il segnale è quello di purificare, concentrando la purificazione e non diluendo e quindi non caricando la vescica di urina, perché così non abbiamo lo stimolo per andare in bagno e possiamo farci le nostre 7 ore di sonno. Se questo equilibrio viene interrotto e la pipì diventa meno concentrata, si riempie più velocemente la vescica e quindi quello è un segno che noi di notte ci alziamo e quindi vuol dire che i nostri reni non funzionano, è un segnale che mandano che c'è nel nostro organismo o nella nostra prostata o nei nostri reni qualcosa che va registrato. Quindi bisogna parlare con il medico. Naturalmente non c'è nulla da preoccuparsi, perché la maggior parte dei miei ascoltatori mi scrive, uomini e donne, alcuni mi mettono anche gli anni dicendo sono anche giovane, ne ho 37 eppure mi alzo di notte. È possibile che si beva troppo prima di andare a dormire, come mi scrive Serena? Ma quello è una cosa che bisogna fare con moderazione. Chiaramente se il nostro rene viene sovraccaricato la sera di acqua di 2 litri, anche il segnale di far dormire il nostro corpo non sussiste e quindi ci dobbiamo alzare la notte. O se abbiamo bevuto dell'alcol la sera, anche quello, siccome sopprime quello che dicevo poc'anzi, in maniera fisiologica, non patologica, cioè nella normalità, la secrezione di un ormone dell'ipofisi del nostro cervello che si chiama diuretina, anche quello ci fa alzare la notte. Quindi sono dei segnali che la gran parte di questi segnali sono del tutto benigni, non, senza nessun significato, però di solito il nostro rene in la nostra coppia intelligente ci fa dormire le nostre 7 ore, non ci stuzzica per andare in bagno. Professor Battaglia, il nostro ascoltatore diceva parlate anche del colore. E certo, perché l'urina più concentrata è e più gialla è, più ricca di acqua è, quindi meno concentrata, e più è acqua di roccia. Più acqua di roccia, meno sostanze ci sono dentro. Siccome i reni purificano, quel colore un po' più denso sono le tossine che noi emettiamo all'esterno. Quindi dal colore sono il prodotto della nostra detossificazione. Professore, quindi dal colore della nostra pipì noi possiamo capire anche se il nostro stile alimentare ci fornisce tutte le cose necessarie per detossinarci. Esatto, per esempio mangiare molta verdura, molta frutta fa sì che il colore della nostra pipì insieme all'acqua, bere molta acqua, il colore della nostra pipì è più chiaro, cioè è meno denso e quindi fa meno fatica ad uscire. Professor Battaglia, a proposito di tossine e di prodotti di scarto che i reni riescono appunto a eliminare, i calcoli renali si formano perché i nostri reni non funzionano a dovere? Non eliminano in modo adeguato? Non eliminano in modo adeguato, ma sono delle vittime, poveretti i reni, del nostro comportamento, del nostro stile di vita che non è corretto. Noi per esempio stiamo ormai nella nostra vita lunghi periodi a digiuno. Il digiuno fa sì che il nostro sangue diventi più acido. arrivare il sangue acido nelle urine, un po' più acido, fa sì che le urine non sviluppano quelle sostanze che non permettono l'aggregazione delle scorie che noi eliminiamo, e non permettendo questa, sì, queste scorie a solidificarsi, non permettono i calcoli, mentre se siamo con un'urina acida perché abbiamo digiunato, queste sostanze non vengono secrete e quindi si... Quindi mai il digiuno? No, stare no, tanto... Mai, dice il professor Battaglia, ma noi non digiuniamo, quindi, e abbiamo un amico, un asso nella manica, il limone, un frutto dalle proprietà straordinarie, l'abbiamo già anticipato in una precedente puntata, un frutto che possiamo proprio chiamare e dire amico dei nostri reni. Perché, professor Battaglia? Ma perché il limone ha l'acido citrico che arriva nei nostri reni, fa sì che le sostanze continuano ad essere disciolte, non si concretizzano e non concretizzano in calcoli. Quindi è un qualcosa che ci è stato regalato così naturalmente e noi... Professore, ci dia la posologia, quando e come e in che momento della giornata è opportuno prenderlo per salvaguardare la salute dei nostri reni e soprattutto per chi ha già avuto dei calcoli renali. Professore. Ma infatti anche la società farmaceutica ne hanno fatto delle sostanze anticalcoli, perché, per dirla in maniera più simpatica, più libera. E la mattina bere 2-3 bicchieri di acqua in cui noi spremiamo 2 limoni, questo significa che abbiamo introdotto tutta la quantità di acido citrico che ci permetterà lungo la giornata di diluire il nostro sangue. Insomma, depurarsi è facile, proprio come Matteo ride, è proprio facile come bere un bicchiere d'acqua, a cui dobbiamo però aggiungere qualche goccina di limone. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma in linea con noi abbiamo il nostro amico il professor Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla facoltà di scienze motorie dell'Università Cattolica di Milano, che fa parte dell'equipe di Mangia con me, quindi lo sentiamo oggi ma lo risentiremo anche domani. Professor Tirelli. Professore? Professor Tirelli, eccola. Sì, buongiorno Nicolette, buongiorno agli ascoltatori. Professore, vorrei che lei ci aiutasse a parlare di energia proprio attraverso l'autoshiatsu. Sì, in questo periodo autunnale si crea spesso una stasi energetica, proprio perché l'autunno porta verso l'introspezione, verso una sorta di arresto energetico, quindi è importante stimolare la nostra energia col punto principale, cardine del sistema dei meridiani, che è il punto 36 dello stomaco, questo famoso punto che viene utilizzato sia per le riabilitazioni fisiche sia per la riattivazione energetica. Lo troviamo facilmente ponendo per esempio la nostra mano, sia a destra sia a sinistra, sullo stesso ginocchio omolaterale, sì, quindi, e trovo sulla punta del mio mignolo, sul quinto dito, un punto a lato proprio del, sì, ginocchio. Quindi io sono seduto, tengo la mano e sulla punta del mignolo trovo una depressione. Sì, una fossetta. Perfetto, è quella. Ecco, quello è il punto 36, che viene detto il punto dei 100 anni, perché si diceva che se stimolato ogni giorno, dai, portava la vita... Veramente? Sì, è il punto dei 100 anni, in cinese Zuzan Li, e questo è un punto efficace perché riattiva, risveglia, tant'è che anche negli ospedali in Cina, in Vietnam, viene utilizzato proprio nei post-operatori, nelle patologie croniche. Quindi se volete vivere 100 anni, iniziate già sin d'ora a massaggiare il magico punto 36. Professor Tirelli, domani parleremo di punti magici con un nuovo partecipante di Mangia con me, quindi l'aspetto. Sì, domani mi raccomando, grande energia nella trasmissione e punti veramente speciali da trattare. Punti speciali, grazie. Grazie. E noi ci depuriamo, ma cerchiamo di ritrovare anche energia e carica insieme alla dottoressa Serri, la nostra dermatologa per amica. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Quante certo, volte abbiamo la sensazione, dottoressa Serri, che la nostra pelle abbia proprio bisogno di una nuova luce? Quando la pelle è spenta, e in questo periodo dell'anno il colorito dell'estate è andato ormai via, noi proprio capiamo che qualcosa dobbiamo fare, perché la luminosità della nostra pelle è anche lo specchio della nostra salute. Ma certamente la pelle parla veramente, racconta di noi, di come stiamo, e certe volte, come al nostro organismo serve depurarsi e disintossicarsi, così serve alla pelle, e spesso la disintossicazione è favorita dal digiuno. Quindi anche un po' di digiuno, una giornata di digiuno sa cutaneo. Che eccomi, eccoli qua, il professor Battaglia ci ha detto che in linea, ha detto spesso i medici ci danno delle indicazioni contraddittorie, il professor Battaglia ha detto non digiunate, la dottoressa Serri dice digiunate una no. giornata, noi che cosa dobbiamo fare? Il digiuno è chiaro che non è un digiuno grazie dottoressa, assolutamente totale, è un digiuno composto da fattori depurativi. Per esempio, io posso suggerire, per quanto riguarda la pelle, di dedicare una giornata per farla risplendere a bere molti centrifugati di frutta e verdura. Questo al professor Battaglia piace, andate d'accordo professor Battaglia? Piace, mangiare alimenti che non vadano ad appesantire certo. l'apparato gastroenterico. Che possano essere. Quindi un digiuno vuol dire, bene. Dottoressa Serri, non mangiare troppo. Okay. No, perché no, sembrava all'ascolto che ci fosse una contraddizione tra no, due esperti che dicevano due cose diverse. Andiamo ad occuparci della pelle del nostro corpo, che spesso trascuriamo proprio in questa stagione perché non lo esponiamo più. Esatto. In effetti conviene ridarsi a un pochino di mare in casa, per esempio. Cospargersi il corpo di olio vegetale, ma va bene dell'olio di mandorle, dell'olio di riso che vendono anche al supermarket, e poi immergersi in una vasca di acqua non fredda ma neanche bollente, acqua a una temperatura dolce, dove sia stato messo un chilo di sale marino grezzo, per esempio, e massaggiarci facendoci uno scrub con del sale fino, e questa è una cosa che ripulisce la pelle, l'aiuta a, in questo scrub delicato e con sostanze totalmente naturali. Sul viso invece si può fare una pulizia con un acido glicolico leggero, una maschera per esempio ha un acido glicolico al 20% che sì. abbia un pH, cioè un tasso di acidità non troppo basso, cioè almeno 3,5 sì. e poi si compra in farmacia dopo un quarto d'ora. Ecco una cosa, naturalmente ognuno deve valutare la sua situazione di pelle, se è sensibile o meno. Invece secondo me ogni tanto lasciare la pelle proprio libera, libera di produrre anche i suoi lipidi, cioè i suoi grassi, libera di stare senza nessuna crema sopra, non è del tutto sbagliato. Questo non va fatto per troppo tempo, ma quando io parlo di digiuno cutaneo parlo di riportiamo la pelle a un suo assetto di base in modo da poter ricominciare a certo. curarla. Nel la modo lasciamo più respirare un po', la lasciamo un po' tranquilla, in questo modo si rigenera anche lei. Dottoressa Serri, rimando anche i nostri ascoltatori al nuovo sito della dottoressa Serri, dove potete trovare tantissime informazioni, e la troveremo presto a Radio 24 in una puntata tutta dedicata a dottoressa Serri, non anticipiamo, ma noi ci abbiamo già pensato. Grazie dottoressa, buona giornata. A presto, buongiorno. Gabriella dalla provincia di Vicenza, mi segnalano professor Battaglia che forse ha la risposta del nostro quizzettone. Abbiamo chiesto quali sono nei reni quelle strutture che permettono di, professore, lavare il sangue? Purificare il sangue. Sentiamo se Gabriella dalla provincia di Vicenza, che ha chiamato il nostro numero verde, ha la risposta corretta. Gabriella. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Complimenti a lei perché mi dà molta positività e ottimismo. Ma sono la molto contenta. La vostra trasmissione la seguo sempre. Grazie. Allora, la mia risposta è questa. Glomeruli di Malpighi. Professor Battaglia. Perfetto. Perfetto, ha aggiunto anche lo scopritore. aggiunto anche lo scopritore Malpighi. Brava Gabriella. A Gabriella sul retro del tovagliolo, come risolvere i problemi e vendere idee con le immagini. Gabriella, continui a seguirci. Grazie. Professor Battaglia, noi stiamo per salutarci, quindi ricordate, bevete anche quando non avete lo stimolo della sete, fate la pipì e guardate sempre questa coppia. Il dottor Tirelli diceva 100 anni, la professoressa diceva una pelle bellissima. Quelle, il glomerulo del Malpighi, sì? È stato scoperto che dentro il glomerulo del Malpighi c'è un gene, il gene della giovinezza. Quindi, belli, giovani e sereni. Perché i reni. Professore, devo salutarla perché mi sfumano. Grazie al professor Battaglia, a domani.